hanno partecipato la maggior parte dei più grandi publisher, tra cui appunto Microsoft, Sony e tanti altri studi, e Nintendo invece ha deciso di non prenderne parte. Ma Nintendo fa parte comunque diciamo, di uno tra i più grandi colossi per quanto riguarda appunto il mondo del gaming, e essendo appunto parte di uno dei mondi, insomma, dei colossi più grandi all'interno di questo settore, Nintendo ha deciso di fare il suo Nintendo Direct estraniandosi da questa Summer Game Fest a distanza di circa una settimana, perché martedì appunto lunedì ha annunciato che nella giornata di martedì 18 giugno c'è stato effettivamente questa diretta del Nintendo Direct, dove abbiamo scoperto una serie di titoli interessanti. Per omaggiare sostanzialmente, no, comunque il Nintendo Direct, che quindi è stato annunciato nel corso appunto di questa settimana. Nintendo Direct che ha regalato delle sorprese molto molto molto molto interessanti. Si è trattata di una diretta di circa 40 minuti, e all'interno di questa diretta dei 40 minuti appunto di videogiochi annunciati in arrivo, non sono state rivelate però notizie in merito alla presunta Nintendo Switch 2, che di cui Nintendo non si è, diciamo, sbottonata, e comunque aveva fatto capire che non ne avrebbe parlato se non appunto probabilmente o verso la fine dell'anno o addirittura l'anno prossimo, che sarà molto probabile ricevere, insomma, notizie in merito al nuovo hardware di casa Nintendo. E dunque molti hanno pensato che questo Nintendo Direct fosse effettivamente l'ultimo Direct importante dedicato al software di Nintendo Switch. E probabilmente ci hanno preso, perché questo Direct si è rivelato essere effettivamente uno tra i più importanti degli ultimi anni. Sono stati annunciati veramente dei titoli importantissimi che comunque adesso andremo pian pianino a vedere. E quindi iniziamo a dire che appunto il primo annuncio visto dal Nintendo Direct è stato completamente inaspettato, ma è stato un annuncio veramente bomba, se così si può definire, nel senso che dopo circa 9 anni di attesa, in modo del tutto inaspettato, è arrivato un nuovo capitolo della serie RPG di Super Mario. Parliamo di Mario e Luigi, e il gioco si chiama in inglese Mario e Luigi Brothership, in italiano onestamente non ricordo il nome, però adesso vado a controllare e ve lo dico subito. Comunque, insomma, Fraternauti alla carica, perdonate l'incidente di percorso. Comunque, questo nuovo titolo della serie, insomma, RPG con Mario e Luigi fa ritorno su console Nintendo, ma soprattutto su una console principale, perché questa saga RPG era nota principalmente per essere disponibile sui dispositivi portatili di casa Nintendo, come il Nintendo DS, il Nintendo 3DS, e quindi insomma fa il suo, diciamo, debutto anche su una console casalinga di Nintendo, e i due idraulici tornano sostanzialmente protagonisti di un nuovo episodio della saga RPG. E quindi veramente molto molto inaspettato, soprattutto questo interesse da parte di Nintendo di portare in auge sempre il genere appunto RPG con Super Mario, dopo comunque anche l'arrivo di titoli quali ad esempio Super Mario RPG o il recente Paper Mario il portale millenario. Mario e Luigi Fraternauti alla carica arriverà nei negozi di tutto il mondo il 7 novembre 2024, quindi non ci resta che attendere appunto questa data per poter effettivamente insomma, mettere mano su questo titolo. Ma per omaggiare appunto Mario, io metterei comunque un tema. E torniamo in diretta. Scusate, piccoli problemi tecnici sono avvenuti, ma eccoci qua. Allora, Dunque, questo era il primo annuncio del cosiddetto Nintendo Direct, questo nuovo capitolo di Mario e Luigi RPG. Allora, fortunatamente sono uscite anche tante altre altri annunci interessanti, ad esempio il Nintendo World Championship NES Edition, che è un gioco che, come richiama lo stesso titolo, praticamente puoi avere, diciamo, hai una sorta di giochi famosissimi usciti appunto sul Nintendo, sul NES, quindi la console, diciamo, originale, e sostanzialmente è un gioco competitivo perché devi fare delle run veloci, rapide, insomma, di tutti questi giochi, tipo Super Mario, comunque il primo The Legend of Zelda, Kid Icarus e tanti altri. E che però sono stati leggermente modificati a livello di difficoltà perché appunto questo titolo era stato pensato per omaggiare appunto il Nintendo World Championship, che era un campionato che esisteva effettivamente tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, in cui c'erano dei ragazzi che si sfidavano appunto a colpi di run rapidissime di Super Mario, appunto Zelda e tanti altri giochi. E quindi Nintendo, insomma, ha voluto omaggiare sostanzialmente l'uscita di questo titolo con una data che è prevista per il 18 luglio. Il titolo è disponibile anche ovviamente sul portale eShop di Nintendo. Andando avanti, poi è stato il turno di un titolo terza parte, ad esempio il secondo gioco di Fairy Tail 2, che è un action RPG dedicato appunto al famoso manga e anime di Hiro Mashima, che tra l'altro mi pare recentemente sia stato anche ospite a Lucca Comics in Games. E quindi, insomma, in questo titolo si può prendere ancora, diciamo, si può prendere parte ancora una volta di Natsu e dei suoi compagni in un epico RPG d'azione in cui ci si può buttare in battaglia in alcune sorti di battaglia in tempo reale, unite, insomma, alle magie dei personaggi del mondo di Fairy Tail di Hiro Mashima. L'uscita di Fairy Tail 2, che è un titolo che ovviamente prenderà, diciamo, concluderà la storia, diciamo, vista nel primo episodio, è prevista per l'inverno del 2024 su Nintendo Switch. È stato poi, diciamo, gli RPG sono state una parte molto importante di questo Nintendo Direct, e infatti poi siamo passati a Phantasian Neo Dimension. Quindi questo titolo, che insomma era stato diciamo tra virgolette criticato per essere presente solo nell'Apple Store, arriva finalmente, insomma, anche disponibile su altri dispositivi. In questo caso parliamo di Nintendo Switch. Questo è l'ultimo JRPG di Inoburo Sakaguchi, e può essere appunto, potrà finalmente essere giocato anche su Nintendo Switch. La parte più bella di questa produzione è sicuramente, diciamo, la direzione artistica, che è molto curata, e purtroppo non si conosce, diciamo, una data d'uscita, ma il lancio sarà comunque previsto molto probabilmente per questo inverno. Maggiori dettagli magari li riceveremo nel corso dell'anno. E da quel che si apprende anche da alcuni comunicati stampa che Nintendo stessa ha divulgato, il titolo sarà sostanzialmente disponibile con un'edizione, diciamo, migliorata dal nome appunto Phantasian Neo Dimension. Andando avanti, ci sono stati anche de degli aggiornamenti per quanto riguarda alcuni giochi presenti proprio nel campo di Nintendo Switch. Ad esempio, abbiamo Nintendo Switch Sport che sostanzialmente ha ottenuto, scusate, un update gratuito a sorpresa. In questo update è stato introdotto praticamente la possibilità di giocare a basket e potrà essere provato anche in un 2 versus 2 online. Quindi chi ha già il gioco può tranquillamente usufruire di questo aggiornamento che è previsto comunque per quest'estate. E andando avanti tra i titoli, diciamo, usciti o comunque presenti all'interno di questo ricchissimo Direct, troviamo questo nuovo, diciamo, Metroidvania che a vista mi ha ricordato un po' Hollow Knight, che purtroppo non è stato, diciamo, presentato in nessuno dei Direct, che sia Nintendo o di Microsoft. Comunque, questo Mio Memories in Orbit, che sembra essere anche una sorta di platform indie fatto da Focus Entertainment. È un'avventura dall'aspetto promettente, per chi magari cerca un'avventura diversa o comunque dai soliti canoni, da un'ambientazione apparentemente pure un po' futuristica. In questo gioco, almeno da quello che abbiamo potuto vedere dal video presente nel Direct, si prendono i panni di un androide dall'agilità molto vispa e con delle abilità particolari, che si risveglia però in una sorta di vascello che lo trascina. E sostanzialmente, insomma, nel video possiamo vedere questo personaggio risolvere magari alcuni puzzle ambientali. Sembra molto interessante, ma l'uscita purtroppo non è stata rivelata se non con un diciamo misterioso 2025. Quindi per attendere notizie su questo titolo bisognerà aspettare l'anno prossimo. Ovviamente, diciamo, in casa Nintendo non poteva mancare anche un aggiornamento in merito a titoli terze parti. Tra questi troviamo un gioco della Disney, ovvero Disney Illusion Island, che era già uscito, e sostanzialmente questo è un aggiornamento in cui praticamente è disponibile già da quando appunto è stato annunciato. E in questo update, vabbè, sostanzialmente questo titolo è un platform in cui si possono usare in contemporanea Topolino, Paperino, Pippi, Minnie, insomma tutti i personaggi dell'universo Nintendo in un gioco molto dal game design molto, molto intrigante e molto, molto carino. Tra le carrellate appunto di titoli terze parti c'è stato anche diciamo, un annuncio su Hello Kitty, un gioco che si chiama Hello Kitty Island Adventure, che sarà sostanzialmente un'esclusiva però temporanea in arrivo nel 2025, e di un gioco che quando l'ho visto mi ha fatto un po' sorridere perché mi ha ricordato i tempi in cui sostanzialmente i videogiochi a tema Warner Bros. Uscivano, però magari che ne so, potevi comprarli magari comprando appunto le scatole di cereali, c'erano i famosi dischi a disposizione che contenevano delle demo. Tra queste c'era, mi ricordo, Tazz Wanted o comunque anche un gioco su Willy, su Willy il Coyote, insomma, c'erano dei giochi, insomma, particolari, e Nintendo ha voluto rendere forse omaggio, no, sto scherzando, alla mia infanzia. Comunque è uscito questo gioco sui Looney Tunes chiamato Looney Tunes Wacky World of Sport, che sostanzialmente è un gioco di basket con appunto protagonisti i Looney Tunes, quindi Bugs Bunny, Daffy Duck, Lola Bunny, insomma, e tutti i personaggi di questo mondo particolare, che magari ricorda vagamente anche Space Jam, il bellissimo film della Warner Bros., che purtroppo poi ha avuto anche un seguito, che però, insomma, è tranquillamente dimenticabile. Looney Tunes Wacky World of Sport sarà disponibile da quest'autunno. Successivamente è stato annunciato anche un un update per quanto riguarda Among Us, che tra l'altro questo update, una storia diciamo divertente, vuole che la settimana prima del direct, in cui ancora non si conosceva la data in cui sarebbe stato fatto vedere a tutto il mondo, lo studio appunto di Among Us ha colpevolmente diciamo liccato la data del direct, per poi fare con un video, appunto, che era il video di presentazione del nuovo aggiornamento presente nel titolo di Among Us, e in cui sono presenti dei nuovi ruoli e alcune piccole novità. E, insomma, in questo trailer era presente la data del direct che ancora non si conosceva, e infatti, diciamo, il video poi è sparito da internet, salvo poi tornare disponibile appena è stato riannunciato ufficialmente. Among Us, che comunque è un gioco tra virgolette investigativo, dove magari ci sta un gruppo di persone che deve investigare su, come posso dire, sull'omicidio magari di altre persone che si comportano appunto da killer, una sorta di, come posso definirlo, lupus in tabula, ma in versione videoludica. E l'aggiornamento comunque è disponibile già a partire dalla giornata in cui effettivamente è stato annunciato. Passiamo poi a Farmaggia, un nuovo intrigante action game con un'atmosfera che sembra ricordare quella dei mostri da collezione. Il titolo è di Marvelous e sostanzialmente ci chiede di reclutare quante più creature possibili per affrontare diversi pericoli nel mondo appunto di Farmaggia, un JRPG. Dallo stile grafico dovrebbe essere fatto, penso, sempre da Hiro Mashima. A tutti gli effetti può avere un ibrido tra combattimenti di mostri e all'interno del titolo sono presenti anche elementi di simulazione, ad esempio di controllo di una fattoria. Un'accoppiata che sembra abbastanza particolare, diciamo, per essere un videogioco, appunto, un videogioco che prevede la collezione sostanzialmente di creature particolari. Il titolo comunque sarà disponibile a partire dal 1° novembre. E adesso arriviamo, diciamo, in una parte un po' particolare, ovvero l'annuncio di Donkey Kong Country, però purtroppo per chi si aspettava un capitolo nuovo rimarrà probabilmente deluso, perché in realtà è stato annunciato Donkey Kong Country Returns in HD, che è sostanzialmente un remake appunto in alta definizione del capitolo di Donkey Kong Country Returns, che originalmente era arrivato su Nintendo Wii e ovviamente aveva ottenuto un grande successo, in quanto comunque è un gioco molto divertente da provare. Fa comunque parte della serie di Donkey Kong Country. E poi è stato rimasterizzato però su Nintendo 3DS. Adesso arriva e ritorna però su Nintendo Switch e probabilmente conterrà anche degli aggiornamenti grafici o comunque dei miglioramenti anche a livello di level design. Il titolo sarà disponibile a partire dal 16 gennaio del 2025. Ma per omaggiare appunto questa uscita volevo passare un pezzo. Oh. E torniamo in diretta. Allora, quindi stiamo parlando del Nintendo Direct. Dunque, dopo questo bellissimo pezzo su Donkey Kong e il ritorno di Donkey Kong Country Returns in HD, che ricordiamo arriverà il 16 gennaio del 2025, è stato il turno dell'annuncio di un altro titolo molto importante, questa volta di Square Enix. Parliamo di Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Scusatemi, Dragon Quest 3 HD, che è sostanzialmente, per chi non lo sapesse, la prima avventura nel canone narrativo di Dragon Quest. Dunque, i primi due capitoli vengono dopo il terzo capitolo. Questo titolo è famoso anche per essere, diciamo, fatto da. Almeno il character design fatto dal compianto Akira Toriyama, che purtroppo ci ha lasciato nel corso di quest'anno. E dunque il terzo capitolo di Dragon Quest HD, che ha uno stile grafico molto, molto interessante, ovvero l'HD 2D, arriverà nel mercato a partire dal 14 novembre 2024 su Nintendo Switch. Ma l'annuncio divertente è stato appunto che non solo c'è stato questo appunto terzo capitolo, ma arriverà nel 2025 anche Dragon Quest 1 e 2 HD 2D Remake, ovvero appunto immaginiamo i primi due capitoli rifatti sempre con la stessa tipologia di grafica. Invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a vedere eventualmente il trailer per farvi un'idea di che cosa sia effettivamente lo stile grafico HD 2D, ma il colpo d'occhio assicuriamo che è molto molto molto bello. Tra gli annunci delle terze parti è arrivato un gioco fatto su quelle famose statuine che forse Pietro che trovo qui in regia con me avrà anche lui forse a casa, ovvero i Funko Pop, non so se conosci, Sì. ok. praticamente è uscito questo videogioco dedicato all'universo dei Funko Pop che si chiama Funko Fusion, quindi arriva questo videogioco dedicato appunto ai Funko Pop che navigano sostanzialmente in vari universi, dal cinematografico a quello videoludico a quello delle serie TV, e sostanzialmente vi permetterà di interpretare alcuni dei personaggi più iconici appunto della cultura pop con questo stile particolare dei Funko. Il videogioco sarà disponibile a partire dal 13 settembre del 2024. Poi sono stati confermati tutta una serie di giochi un po' particolari. Tra pochi giorni dovrebbe arrivare sul mercato il remake di Luigi's Mansion 2 HD, e quindi è stato mostrato un video in cui, insomma, veniva presentato questo titolo uscito originalmente su Nintendo 3DS e adesso sarà disponibile su Nintendo Switch. Poi è stato il turno di Metal Slug Attack Reloaded, un capitolo Tower Defense della serie che mi ha ricordato, diciamo, un video di un noto YouTuber italiano che, diciamo, non prese benissimo questa scelta di Metal Slug rifatto, insomma, in versione Tower Defense, ma questo è un altro capitolo a parte. E il secondo capitolo di Darkest Dungeon 2. Ma non è finito qua, tra gli annunci sempre importanti troviamo anche il pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online che si è aggiornato con delle novità a sorpresa molto, molto importanti. Parliamo di due giochi un po' bellissimi presenti per Game Boy Advance, ovvero The Legend of Zelda A Link to the Past e Forsworld, e Metroid Zero Mission. Quindi, insomma, questi due capitoli per quanto riguarda il pacchetto Nintendo Switch Online sono presenti sul catalogo del Game Boy Advance, ma anche delle novità a tema appunto Nintendo 64, ovvero Turok Dinosaur Hunter e soprattutto Perfect Dark, che ne avevamo parlato anche nella puntata precedente, ma che adesso ormai è un IP della Rare, quindi di Microsoft, ma che all'epoca, insomma, il primo capitolo di Perfect Dark arrivò appunto su Nintendo, in quanto Rare era uno studio appunto di Nintendo. Quindi quattro classici amatissimi, disponibili già dall'annuncio del Direct sul Nintendo Switch Online. Quindi se volete provarli basta avere appunto questo abbonamento. E peccato che non abbiano annunciato tra i giochi appunto del Nintendo 64, visto che questa, diciamo, collaborazione con Rare, con Microsoft, potevano annunciare magari anche Conker's Bad Fur Day, però chissà, magari in futuro potrà arrivare, non chissà, diamo tempo al tempo. È arrivato anche un nuovo capitolo della serie Phantom Brave, ovvero The Lost Hero, che però sarà disponibile nel corso del 2025. Ci sono numerosi personaggi e abilità che si potranno padroneggiare, e come si può vedere appunto dal trailer dedicato appunto a questo gioco, che si chiama appunto Phantom Brave The Lost Hero, che però, come ribadisco, arriverà nel 2025. Le sorprese non sono finite qui, perché gli amanti dei picchiaduro sicuramente avranno sussultato di gioia appena è stato annunciato il ritorno di Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics, che comprende appunto, come dice lo stesso nome, tutta una serie di picchiaduro che sono usciti, insomma, nell'epoca forse dello SNES, che sicuramente, insomma, fa piacere a chi ama il genere. Sono dei picchiaduro 2D vecchia scuola e riportano in auge appunto la serie di Marvel vs. Capcom, con addirittura 7 giochi. Questi giochi comprendono X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2 e The Punisher. Questi sono i titoli disponibili all'interno di questa collector. Purtroppo non c'è al momento una data d'uscita, ma è confermato che il lancio arriverà nel corso del 2024. E ovviamente non poteva mancare anche l'aggiornamento per un nuovo gioco in arrivo della serie di Super Mario Party, chiamiamo Super Mario Party Jamboree. I giocatori possono divertirsi con tanti nuovi minigiochi e tabelloni originali, con alcuni anche presi dai capitoli precedenti, e includerà principalmente, da quel che è stato mostrato, 5 tabelloni nuovi e 2 tabelloni, appunto, come dicevo, classici, provenienti dai primi 2 capitoli di Mario Party. Questo capitolo quindi sembra offrire sostanzialmente una sorta di un ibrido tra i giochi precedenti e i giochi rilasciati anche su Nintendo Switch. Si potrà giocare addirittura online con un multiplayer da ben 20 giocatori, quindi prevedo il caos più totale per chi vorrà appropriarsi, insomma, di questo titolo. Super Mario Party Jamboree arriverà il 17 ottobre del 2024. Ma adesso parliamo di un titolo che effettivamente nessuno si sarebbe mai aspettato, ma che finalmente è arrivato, è stato mostrato. Parliamo di un nuovo capitolo di The Legend of Zelda, e fino a qua tutti dicono: vabbè, ma che ci sarà di strano? Sarà sempre Link, insomma, sarà sempre un'avventura in cui magari il nostro Link dovrà andare a salvare la principessa Zelda da un pericolo imminente, e quindi magari, insomma, sarà un capitolo particolare. E invece no, questo gioco si chiama The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, e in questo gioco, al contrario di quanto si possa pensare normalmente, si prenderanno per la prima volta in assoluto i panni della principessa Zelda come protagonista. Aonuma, che è il game designer dietro la serie di Zelda, ha spiegato che sostanzialmente questa scelta permette ai giocatori di godere un nuovo tipo di gameplay basato principalmente non sull'attacco, ad esempio Link c'ha la spada e quindi attacca per poter insomma uccidere diciamo i nemici che si ritrova di fronte. In questo caso basterà utilizzare semplicemente una sorta di bastone magico, quindi una sorta di bacchetta che toccando dei materiali può semplicemente replicarli, e quindi è basato principalmente sulla magia di questo bastone, che ricrea appunto degli oggetti utili per poter attraversare le diverse aree di gioco, risolvere numerosi puzzle che si possono trovare. Lo stile grafico utilizzato per questo nuovo capitolo di The Legend of Zelda è lo stesso usato per A Link's Awakening, uscito qualche anno fa sempre su Nintendo Switch, però questo è un gioco completamente nuovo, mentre quello era diciamo un remake di un titolo uscito precedentemente su Game Boy. Quindi si prospetta essere un titolo molto interessante, nonostante possa sembrare uno spin-off, ma non è uno spin-off, e arriverà nel mercato a partire dal 26 settembre del 2024. In più è stata annunciata anche un'edizione limitata della Nintendo Switch Lite in edizione dorata, con dei disegni che rappresentano appunto la Triforza. E che dire, è un titolo molto interessante. Purtroppo sul web sono successe anche delle polemiche in mezzo al lancio, insomma, all'annuncio di questo gioco, perché qualche, mi verrebbe a dire, cretino pensa che questa scelta di Nintendo sia la cosiddetta una scelta woke, perché si usa una protagonista Zelda non è mai stata protagonista, c'è sempre stato Link. Queste cose lasciatemelo dire, anche se sono in via radio, per me sono delle cretinate, anzi tanto di cappello a Nintendo, e finalmente fa uscire un gioco in cui la protagonista della serie è Zelda e quindi si usa Zelda. E quindi sarà sicuramente un titolo molto interessante. Bene, per omaggiare appunto questa scelta, vi passo un altro nuovo pezzo musicale. E torniamo in diretta. Allora, mancano gli ultimi minuti di trasmissione, quindi andrò veloce con la carrellata di ultimi giochi diciamo annunciati, anche perché poi non sono esattamente quelli più interessanti. Allora, durante l'Ubisoft Forward, che era una delle presentazioni presenti appunto nel Summer Game Fest, Ubisoft non aveva annunciato un titolo che solitamente fa parte della sua lineup, che può piacere o non piacere, ma comunque è un titolo che comunque vende numerose copie, ovvero Just Dance. Just Dance, e quest'anno ovviamente nel corso del Direct è stato annunciato che Just Dance 2025 Edition arriverà effettivamente anche su Nintendo Switch e, come di consueto, sarà disponibile a partire dal mese di ottobre. Questo è un titolo dove sono presenti numerose canzoni che si possono ballare, solitamente di musica, insomma, dei giorni, diciamo, degli anni attuali, però anche di pezzi del passato, e insomma un pubblico casual o comunque di chi ama la musica sicuramente può apprezzare questo tipo di titolo. E poi è stato il turno di un annuncio un po' particolare, ovvero LEGO Horizon Adventure, dove la cosa particolare sta più che altro nell'etichetta con cui è stato presentato, ovvero PlayStation Publishing, e si può dire sostanzialmente che questo è il primo titolo PlayStation arriva, cioè con l'etichetta PlayStation arrivata su il mondo, diciamo, Nintendo, quindi tramite Nintendo Direct. Quindi insomma, questo titolo, LEGO Horizon Adventure, che riprende sostanzialmente il mondo di Aloy di Horizon Zero Dawn, in chiave appunto LEGO, arriverà anche su Nintendo Switch, e quindi è ispirato sostanzialmente appunto all'esclusiva di Sony, che però ormai è presente anche su PC, e sarà disponibile a partire da quest'inverno. È arrivato anche, è ritornato anzi, anche sull'unica console in cui ancora non era arrivato il titolo di Annapurna, ovvero Stray, dove prendiamo i panni di questo tenero micio che arriva anche su Nintendo Switch. Chi è amante sostanzialmente dei gatti potrà finalmente avere un'avventura con appunto protagonista appunto un gatto in un mondo molto futuristico, e arriverà a partire da questo inverno, e potrà essere giocato anche in portabilità, quindi sicuramente è un'avventura interessante. Il frame rate con cui è stato presentato però era onestamente un po' ballerino, però speriamo che magari quando arriverà effettivamente sul mercato possano effettivamente magari aggiustare delle dinamiche e renderlo, diciamo, un po' più appetibile, ma è un titolo comunque arrivato a distanza di circa 2 anni sui portali Nintendo. Poi è stato il turno di Tales of the Shire, a Lord of the Ring Game, un gioco dove sostanzialmente che è ispirato al mondo appunto del Signore degli Anelli, ed è dove puoi giocare sostanzialmente al gestire gli Hobbit nella contea degli Hobbit. Ci permetterà sostanzialmente di vivere una rilassante esperienza da Hobbit nei panni appunto di un abitante impegnato sostanzialmente a fare le tipiche attività da Hobbit, ovvero pescare, conoscere nuova gente, fare boh, pasti in compagnia. Il titolo sarà disponibile comunque da questo inverno. È stato presentato anche Ace Attorney Investigation Collection, una collector di Capcom, della serie Ace Attorney, e arriverà insomma a partire dal 6 settembre del 2024. Se può essere potenzialmente interessante, chissà se hanno messo anche la lingua in italiano. È stato poi presentato The Hundred Line Last Defense Academy, che è un titolo che riprende uno stile grafico dai titoli, ad esempio, della serie videoludica quasi anime Danganronpa, e infatti è fatto dagli stessi autori. Sostanzialmente bisognerà difendere un'accademia dall'assalto di alcuni mostri per circa 100 giorni. La data d'ufficio d'uscita non è stata annunciata, ma il lancio è previsto nel corso del 2025. Arriverà anche Romancing Saga 2 Revenge of the Seven, un remake, appunto, anche questo di un leggendario gioco di Square. È di Square Enix che arrivò per la prima volta nel mercato nel 1993 e sarà disponibile a partire dal 24 ottobre del 2024. Ma l'annuncio che poi ha chiuso effettivamente la conferenza del Nintendo Direct è stato quello più atteso e inaspettato di tutti, ovvero parliamo di Metroid Prime 4 Beyond, che a quanto pare esiste. È un gioco che Nintendo ci ha tenuto sulle spine per oltre 7 anni, facendoci credere che questo gioco, insomma, fosse forse anche addirittura cancellato. In realtà, in una prima parte era stato cancellato perché era stato dato in mano a Bandai Namco, ma Nintendo non era rimasta soddisfatta del risultato. Per poi appunto rifarlo e ridarlo in mano ad alcuni suoi studi. Ebbene, nel finale del Direct è stato appunto annunciato questo Metroid Prime 4 Beyond, che quindi è vivo e lotta in mezzo a noi. Quindi sarà un nuovo capitolo della serie in cui si interpreta Samus Aran in prima persona. E è stato mostrato un breve trailer dove fortunatamente è stata rivelata il periodo, diciamo, d'uscita, ovvero il 2025. Quindi Nintendo ci chiede ulteriormente pazienza per attendere numerose informazioni in merito appunto a questo titolo che arriverà nel 2025. Forse potrà essere il gioco che farà da passaggio appunto da Nintendo Switch alla successiva console chiamata per ora Nintendo Switch 2. E in conclusione, io direi di passare quest'ultimo pezzo e poi passiamo ai saluti. E torniamo in diretta. Siamo ai saluti finali di questa puntata di A-Listen. Abbiamo parlato del Nintendo Direct che ha chiuso quindi questa stagione, diciamo, della Summer Game Fest in attesa della Gamescom, dove magari otterremo ulteriori notizie e informazioni su giochi. Per ora sappiamo che, ad esempio, notizia degli ultimi giorni, Sony non parteciperà quest'anno alla Gamescom e Nintendo pure non ha dato la partecipazione. Quindi chissà, per il momento rimane Microsoft. Vedremo, speriamo insomma che questa manifestazione che rimanga perlomeno attiva e comunque scopriremo il tutto durante il mese di agosto, che è il mese in cui si svolge la manifestazione Germania dedicata appunto ai videogiochi in quel di Colonia. Dunque ragazzi, grazie per l'ascolto di questa puntata. L'appuntamento rimane a giovedì prossimo, probabilmente sarà la puntata di chiusura di questa stagione. Vi terrò comunque aggiornati nei social e anche insomma durante la trasmissione. Io ringrazio al solito il Brancaleone per ospitarci nei suoi studi, Gemini Network e tutte le radio associate al gruppo Pirate Radio da cui ci state sentendo. Ci sentiamo dunque giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto e un buon proseguimento. E aggiungerei anche Forza Italia, visto che stasera c'è la nazionale.